as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, oggi è il Pane Rose, iniziamo una puntata parlando di lotte di lavoratori della sanità, in questo caso parliamo di lavoratori della Steel Italia. Lunedì c'è stato un presidio in via Massarenti, davanti al padiglione 19, i lavoratori della Steel Italia, che è un'azienda che si occupa di sterilizzazione dei strumenti chirurgici per le sale operatorie, non solo, del Sant'Orso e dei Rizzoli, sono scesi in lotta. Siamo andati da loro, hanno fatto una bellissima iniziativa in cui hanno messo tanta musica, sentirete nelle interviste, musica alto volume, ci siamo spostati ma comunque la musica era fortissima. Noi ci scusiamo per i nostri ascoltatori se c'è questo sottofondo di musica anni 80, ma è voluta proprio per attirare l'attenzione delle persone. Gli autori si sono messi lì in strada, non hanno bloccato la strada, però hanno chiesto un clacson a tutte le persone che passavano in solidarietà. Ne parliamo con Stefania Pisani, che è la segretaria della FILCTEM di Bologna, che segue tutte le aziende legate a questo settore, della FILCTEM, chimiche e tessili. In questo caso loro fanno parte della FILCTEM, di questa categoria. Adesso mettiamo un pezzo musicale che ci ricorda che quando il sindacato si muove ed è unito, le lotte si riescono a realizzare. Poi ci sentiremo per le conclusioni. Adesso, primo pezzo musicale, poi Stefania Pisani, e poi ci sarà Valerio, che è il delegato della FILCTEM della Steel Italia del Sant'Orsola, e poi, insomma, ci salutiamo con le conclusioni. We must fight for from the cities and the farmlands to trenches full of mud. War has always been the bosses' wiser. Brothers and our sisters in many far off lands, there is power in a union. Now I long for the morning that I realize brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize, when the bosses send their lackeys out to cheat us? Speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. There is power in a union. We'll be right back. Allora, siamo qui al Sant'Orsola con Stefania Pisani. Oggi sciopero degli operatori della sanificazione. Raccontaci tu le ragioni di questo sciopero. Siamo qui sulla strada, stiamo chiedendo la solidarietà dei bolognesi e sentiamo il clacson. Ne stiamo anche ottenendo tanta di solidarietà. Ottimo, ottimo, visibilità e tutto. Ma siamo qui nella sede di uno dei gioielli della sanità regionale. Certo. Eppure dentro questo gioiello c'è un meccanismo di appalti che fa nei fatti speculazione rispetto a condizioni di base dei diritti delle persone e dei lavoratori. Nel momento in cui c'è stato il cambio appalto della centrale di sterilizzazione, tra l'altro mansioni fondamentali perché si vanno a sterilizzare i kit che poi verranno utilizzati nelle sale operatorie e quindi una funzione molto molto delicata, in fase di cambio appalto, tanto per cambiare, vengono ridotti i diritti di questi lavoratori. Nello specifico viene scippato il buono pasto ai lavoratori, i quali con la reperibilità sono capaci anche di fare 15-18 ore consecutive di lavoro con quello che determina, e non gli viene neanche riconosciuta la possibilità di poter avere non un servizio mensa, stiamo parlando proprio dell'ottimo, ma anche un banale buono pasto per potersi comprare un panino in una zona dove per mangiare un panino devi spendere 10 euro. Possibile che un committente come quello del Sant'Orsola possa accettare una condizione di squilibrio di questo tipo dentro la sua cittadella sanitaria all'avanguardia del sistema sanitario nazionale? Per noi è imbarazzante. Ci sono problemi notevoli dentro gli appalti del Sant'Orsola che sicuramente non si riducono ai problemi dei colleghi che stanno scioperando oggi. È arrivato il momento di metterci una bella lente di ingrandimento per risolverli, perché la qualità del servizio pubblico parte dalla qualità del lavoro degli ultimi che ci sono all'interno, e questo qui dentro non sta avvenendo. Quindi chiediamo che ci siano delle risposte, in primis da parte delle aziende che vincono le gare con capitolati pubblici, che dovrebbero tener conto in primis delle condizioni di lavoro. E le condizioni di lavoro sono condizioni normative, ma sono anche e soprattutto condizioni economiche, soprattutto in un contesto di crisi economica e di inflazione come quello che stiamo vivendo. Perché mi ha fatto, oltre al buono pasto, cos'è che hanno perso i lavoratori? Ma i lavoratori hanno perso tutta una serie di condizioni, perché è evidente che nel momento in cui la normativa nazionale prevede solo ed esclusivamente il mantenimento di quello che è la contrattazione collettiva nazionale e quindi tutte le avanguardie di normazione di secondo livello conquistate da questi lavoratori vengono di volta in volta persi, partendo da capo, sembra un po' il gioco dell'oca, ci ritroviamo sempre al punto di partenza. Ecco, questo è un problema che deve essere risolto, ci sono tante dimensioni per risolverlo. Sicuramente gli appalti, come da sempre diciamo, devono essere ritornare a quella che era la loro funzione originaria, ovvero si va verso gli appalti, all'esternalizzazione, solo ed esclusivamente quando la società in appalto può fare meglio della diretta committente. Non si porta il sistema d'avanguardia al risparmio sulle retribuzioni e sulle condizioni normative degli ultimi, perché invece è quello che sta avvenendo. Non lo accetteremo, non staremo zitti, non aspetteremo più, perché sono 2 anni e mezzo che si prova a portare avanti questa discussione con l'azienda, ma nei fatti l'azienda non ha nessuna voglia di dare risposte di questo tipo. I problemi sono tanti, sono problemi anche di inquadramenti, sono problemi di retribuzioni, sono problemi di maggiorazione del lavoro domenicale, sono problemi di turni di reperibilità che sono al limite dell'indecenza, ma i lavoratori hanno deciso di scioperare perché l'elemento fondamentale, che è quello di un pasto, di poter avere un pasto al pari dei loro colleghi che lavorano alle dirette dipendenti del Sant'Orsola, lo ritengono proprio un elemento di banale e minima civiltà che andava urlata. Certo, ci sono anche i turni massacranti, io ho letto nel volantino. Esattamente. Questi turni di cosa stiamo parlando? Sono turni che portano i lavoratori dopo la loro normale turnistica di lavoro, perché devono rispondere alla reperibilità, perché in un contesto sanitario capirete bene che non si può pensare di non dare un servizio come quello che danno loro, ma questo servizio deve essere organizzato anche nella logica della tutela dei lavoratori che operano all'interno. Lavoratori che finiscono il turno vengono richiamati immediatamente in reperibilità e si trovano, cioè noi abbiamo delle denunce di lavoratori che per 18 ore di lavoro di seguito sono stati dentro all'ospedale per portare avanti, ripeto, un servizio delicato come quello della sanificazione dei kit delle sale operatorie. Cioè, ci rendiamo conto che un minimo di disattenzione potrebbe determinare grossissimi problemi, certo, per tutti i malati che ci sono dentro al Sant'Orsola? Cioè, è possibile che un servizio di una delicatezza di questo tipo venga, come dire, dato in appalto e chi gestisce in appalto non viene in alcun modo controllato rispetto alla modalità di gestione? Questo è un modo per ridurre i costi, ma perdonatemi, i costi non si possono ridurre sugli ultimi. Se c'è un problema di finanziamento della sanità pubblica, bisogna metterti tutti insieme per rimettere al centro il tema della sanità pubblica, non pensare di bypassare il tema scaricandolo sugli ultimi. Gli ultimi si stanno ribellando. E poi ci andiamo di mezzo noi, perché la sterilizzazione chiaramente ne risentono poi i pazienti fino alla fine. Ma certo che ne risentono i pazienti, ne risentono i pazienti per forza, così come ne risentono i pazienti quando l'appalto delle pulizie non viene gestito secondo i criteri che dovrebbero essere quelli dell'igiene in luoghi dove abbiamo immunodepressi, ad esempio. Ci sono tanti temi che vanno affrontati quando si parla di appalti. E parlare di appalti dentro la sanità pubblica bisognerebbe avere uno sguardo un po' più attento, dove la dignità del lavoro deve diventare centrale nelle discussioni, perché se non c'è la dignità di chi lavora dentro al sistema della sanità pubblica, non c'è dignità per tutti noi che dentro la sanità ci troviamo come pazienti a passarci quotidianamente. E questa era una denuncia che andava assolutamente fatta, e va fatta proprio per mettere al centro un problema di politica generale. La cosa che mi stupisce è che mi sarebbe piaciuto vedere qua anche i medici, i quali lavorano con quegli strumenti, e avere strumenti non sterilizzati non riescono nemmeno a lavorare bene, rischiano di fare dei danni, non causa loro, ma causa dell'azienda che non permette una corretta sanificazione, visto quello come tratta i dipendenti, no? Concordo. Questa non è una battaglia di alcuni lavoratori, è una battaglia di tutti gli operatori della sanità, perché con il buon lavoro e le buone condizioni di tutta la filiera che opera dentro la sanità, che si può realmente svolgere un servizio che è all'altezza della dignità delle persone. Quindi sì, speriamo che questi scioperi possano avere sempre di più la solidarietà di tutti gli operatori diretti della sanità, perché un minimo ingranaggio può far crollare il sistema, e noi che siamo gli ultimi siamo quella pietrolina nell'ingranaggio che rischia di farlo saltare. È un urlo per chi ama la sanità pubblica quello che c'è sulla strada oggi in via Massarenti a Bologna. Dunque un appello anche a Bulgarelli, che è segretario della CGIL di Bologna. Bisogna che si faccia qualcosa per riunificare tutti i lavoratori della sanità del Sant'Orsola, perché il problema di questi lavoratori è il problema di tutti. Esattamente, è il problema di tutti, ed è il problema dei cittadini, ed è il problema della politica, ed è il problema della dirigenza sanitaria. Non è il problema del lavoratore che si vuole mangiare un panino e non gli viene data la possibilità dall'azienda di farlo perché non gli riconosce un buono pasto. Parliamo poi di questi lavoratori. C'è anche una delle rivendicazioni, è l'indennità, cioè dell'aumento domenicale, che è stato ridotto. No, diciamo che nel momento in cui i lavoratori lavorano in reperibilità la domenica, la maggiorazione non gli viene pagata con la maggiorazione del lavoro festivo, del lavoro domenicale. Nonostante il contratto collettivo dica questo, nonostante abbiamo rivendicato con l'azienda che venga riconosciuto il contratto collettivo, ma l'azienda ritiene che invece queste maggiorazioni non gli debbano essere riconosciute. Un modo come un altro per ridurgli lo stipendio, no? Questo dovrebbe far riflettere sempre i lavoratori della sanità, perché quello che succede a questi lavoratori potrebbe succedere anche agli altri. Ma è nei fatti, si comincia sempre dagli ultimi, poi quello che si vede negli ultimi viene sperimentato in trincea e poi arriva direttamente nelle case delle persone che si sentono più tranquille. Non c'è tranquillità nel mondo del lavoro fin tanto che la dignità degli ultimi non viene rispettata. Il pane delle rose è con voi e sarà sempre al vostro fianco. Grazie, grazie tante. Ecco qua, abbiamo Valerio, il delegato sindacale della Filstem. Raccontaci un po' la vostra situazione. La nostra situazione è che ad oggi siamo qui oltre 2 anni che vi chiediamo Buonipasto all'azienda Seritalia. Siamo circa 5 dipendenti tra Sant'Ursola e Rizzoli che chiedono appunto un buono pasto che ci... è una realtà di 55 operatori che comprende appunto Rizzoli e Sant'Ursola. Noi ci occupiamo di sterilizzazione di strumentario chirurgico, quindi tutto ciò che comprende sale operatore, ambulatori e degenze. Quindi stiamo parlando di criticità, di terapie intensive, di reparti pediatrici e terapia intensiva generale. Noi qui siamo a rivendicare il buono pasto anche per il fatto che ci è stato scippato un buono pasto per cui noi avevamo in precedenza con i vecchi appalti, e subentrando questa azienda Seritalia ci ha scippato il buono pasto. Ma non solo, ti ha tolto anche l'indennità della domenica, no? Noi purtroppo lottiamo tutti i giorni per avere dignità per i nostri lavoratori, per una retribuzione migliore, per una maggiorazione al notturno che non ci viene riconosciuto. C'è anche il notturno, oltre la domenica, che viene stato negato. Sì, cioè no, il notturno festivo di domenica, okay, che ci viene pagato al 30% purché al 50% secondo il nostro contratto collettivo nazionale. Addirittura. Il nostro contratto collettivo nazionale è molto blando, è legato alle lavanderie industriali, mentre noi ci occupiamo della sterilizzazione dei peri chirurgici. Una cosa importante per la persona, per tutte le persone che vivono a Bologna. Purtroppo c'è un'indecenza da parte del Servizio Sanitario Regionale, purché ci sono sempre dei rimbalzi, uno spending review che riguarda appunto la sanità, che questo riflette poi sugli appalti che ci sono a Bologna. C'è anche la questione dei turni massacranti, vi diceva Stefania, la vostra funzionaria. Facciamo turni H24 e purtroppo il personale è sempre in ricambio, quindi c'è sempre il subentro di nuove persone che hanno bisogno di una formazione professionale che non sempre viene attuata, perché le esigenze lavorative sono molto alte, le richieste, e quindi si fa fatica la formazione, nonostante l'impegno di tutti gli operatori per questo lavoro, sono tutti dedici e passione, hanno una passione per questo lavoro, altrimenti non saremmo qui oggi tutti a scioperare. Noi siamo con voi, altri scioperi ci saranno? Io dentro di me spero di no, che riusciamo ad avere una risoluzione al tutto, anche se ripeto ci abbiamo messo tutto il nostro oltre da 2 anni per non arrivare fin qui, ma oggi siamo qui per dare un segnale forte alla Seritalia, ma soprattutto all'ospedale Sant'Orso e Rizzoli per il riconoscimento del buono pasto. Grazie mille. Abbiamo ascoltato una canzone che è un augurio ai lavoratori della Steel Italia. Ricordo a tutti che per chi non si fosse collegato solamente adesso, potrà ascoltare nella pagina Facebook Il Pane Rose la puntata in podcast. Allora, cosa dire? Siamo davanti a un caso veramente assurdo, perché abbiamo dei lavoratori, cioè sono 55 tra l'altro, Sant'Orso e Rizzoli, che si occupano di una delle cose più importanti della, che si fa in ospedale, la sterilizzazione degli strumenti chirurgici. Cioè, da loro dipende la vita dei pazienti, e questo il cambio d'appalto ha peggiorato le condizioni di questi lavoratori. Turni massacranti, veramente delle situazioni veramente imbarazzanti di carenze salariali. Ma io vorrei capire come è possibile risparmiare su dei lavoratori che hanno un ruolo così importante, e soprattutto vorrei capire perché in Italia si trovano i soldi per tutto, per darli a Zelensky, per costruire i cessi d'oro dei politici ucraini, per darli a Israele, per fare tutte le cose possibili e immaginabili, e poi mancano i soldi alla sanità, mancano i soldi per questi lavoratori, facciamo lavorare in condizioni drammatiche questi lavoratori, che sono lavoratori, ripeto, che svolgono un ruolo importante, ma tutti i lavoratori hanno diritto a un salario decente. Io vorrei capire come è possibile che al Sant'Orso non si organizzi uno sciopero generale, anche perché la paura, così come abbiamo espresso nell'intervista, è che questa situazione dilaghi, si parte dagli ultimi, fa sempre così, colpiscono i lavoratori in appalto per poi andare oltre. Immaginiamoci se gli infermieri dovessero perdere il diritto alla mensa, cioè, oppure gli infermieri dovessero non essere pagati come il giusto stipendio per la domenica lavorativa, per le festività, se dovessero lavorare questi turni massacranti di 12, 13, 14 ore al giorno di lavoro. Ma cioè, veramente, io vorrei capire dove vogliamo arrivare. Cioè, qui il problema non è, stanno distruggendo la sanità pubblica, ma in questo caso anche quella privata, perché poi non è che nel privato le condizioni siano da Dio nella sanità, ecco. Io spero che la CGIL di Bologna proclami subito uno sciopero generale anche in Rizzoli, al Sant'Orsola, per questi lavoratori, ma per un'avvertenza generale, per dire basta a fare risparmi sulla pelle dei lavoratori. Questa è una cosa che dobbiamo comunque fare il prima possibile, e spero che ci si muova, perché il problema dei lavoratori della Steel Italia sono problemi importanti, riguardano tutti, ma riguardano tutti gli operatori della sanità e riguardano tutti i cittadini di Bologna. Con questo augurio speriamo che ci sentiamo alla prossima puntata, e parleremo comunque sempre di lavoratrici, in questo caso di donne, di femminismo. Ci sono bellissime iniziative a Bologna, ne parleremo alla prossima puntata.